Non sarà mai stato realmente membro di un ordine goliardico, il bolognese Prospero Lambertini, prima cardinale arcivescovo di Bologna, poi papa con il nome di Benedetto XIV. Ma di certo con i goliardi aveva in comune una certa insofferenza nei confronti dei poteri forti, come li definiremo oggi, e una naturale inclinazione al sarcasmo. Per via dell'intercalare marcatamente bolognese e del suo senso dell'umorismo, è Papa Lambertini, con ogni probabilità, il pontefice a cui sono attribuiti il maggior numero di aneddoti divertenti e frasi celebri non proprio pontifice. Un esempio? Si racconta che il giorno della sua elezione, il 17 agosto 1740, affacciandosi al balcone della Basilica di San Pietro, sia rimasto così impressionato dalla sconfinata folla radunata per l'occasione da chiedere a uno dei suoi assistenti: «Ma come fa tutta questa gente a campare?» Questi gli avrebbe risposto: «Santità, l'uno gabba l'altro», al che il pontefice avrebbe replicato sardonico: «E noi gabberemo tutti loro». In un'altra occasione sembra che si sia rivolto all'ambasciatore francese, sorpreso a fare pipì in giardino: «Eccellenza, vorrei che un'altra volta si astenesse, perché se lo viene a sapere l'ambasciatore spagnolo, così geloso delle sue prerogative, me la viene a fare in camera». In realtà, a dispetto del suo provocatorio senso dell'umorismo, Papa Lambertini fu uno dei pontefici più illuminati della storia, intraprendendo una rivoluzionaria opera di riforma in seno alle istituzioni cattoliche per uscire dall'ottuso immobilismo degli ideali della Controriforma. Promosse l'applicazione del metodo scientifico anche presso le università cattoliche e sappiamo che nell'ambito accademico anche a Bologna fu promotore di un rinnovamento dei metodi e della classe docente. In questo contesto destò scalpore all'epoca la cancellazione dall'indice dei libri proibiti di tutti i testi a favore delle teorie copernicane, compresi i lavori di Galileo Galilei, ottenendo un attestato di stima di un noto anticlericale come Voltaire. Lo storico John Kelly definì il suo carattere conciliante per natura e per convinzione. In effetti è attribuita a Papa Lambertini la frase «La spada non sta bene in mano a chi, benché indegnamente, è vicario di Gesù Cristo». Non stupisce quindi che fu proprio lui ad aprire per la prima volta nella storia la Chiesa al dialogo con il mondo laico e con quello protestante, iniziando un periodo di distensione dopo l'escalation di ostilità dei secoli precedenti. E non è finita qui. Durante il suo pontificato fece il possibile per migliorare le condizioni di vita della povera gente, riducendo le tasse ed eliminando balzelli, proseguendo la politica che già aveva applicato come arcivescovo di Bologna, in cui si era adoperato alacremente per ridurre anche le spese eccessive del Senato e dei suoi membri, sempre impegnati in cerimonie e banchetti faraonici. È grazie a lui se ancora esiste il Colosseo. Ai tempi di Papa Lambertini, infatti, era utilizzato in pratica come cava per l'estrazione di materiali edili. Se oggi sembra incredibile, ricordate la frase «Quello che non hanno fatto i barbari, lo hanno fatto i barberini», riferita alle scempiaggini provocate dallo scellerato Papa Urbano VIII, Vincenzo Barberini, che nel 1625 fece fondere le travature in bronzo del pronao del Pantheon per costruire il baldacchino di San Pietro e i cannoni di Castel Sant'Angelo. Nel 1905 il drammaturgo Alfredo Testoni scrisse la commedia «Il Cardinal Lambertini», nella quale viene messo in risalto il carattere anticonformista della figura storica del Lambertini. Ricevuta inizialmente tiepidamente dal pubblico, ebbe nel corso degli anni un crescente successo, arrivando nel 1923 a contare la 1000ª messa in scena. L'opera fu sottoposta a ben 2 adattamenti cinematografici, il primo nel 1934 e il secondo nel 1954, con protagonista Gino Cervi. Procolo lontano da Procolo.